Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City, seconda puntata dello speciale dedicato alle fuel cell o celle a combustibile, una delle tecnologie più promettenti per quanto concerne il futuro dell'energia. E qui ricordo insomma di che cosa si tratta molto brevemente. Una cella a combustibile può essere in pratica assimilata a una pila, a una batteria elettrica, dove però i reagenti chimici, anziché essere impacchettati all'interno della batteria, vengono forniti dall'esterno. E che cosa permettono di fare queste celle a combustibile? Di generare elettricità ad alta efficienza, più addirittura che in una grande centrale elettrica, senza inquinamento, a partire da vari combustibili. Tra le numerose famiglie tecnologiche, la più nota è quella delle celle combustibili PEM, che sta per Proton Exchange Membrane, adesso capiremo di cosa si tratta, che usano idrogeno e ossigeno per generare elettricità producendo come scarto acqua. Sulle PEM si punta soprattutto per la mobilità e sono di fatto la tecnologia chiave della cosiddetta economia all'idrogeno. Ne parliamo con Irene Gatto, che è ricercatrice del CNR ITA e dove è responsabile del gruppo che si occupa appunto di celle polimeriche e di accumulo di idrogeno. Benvenuta Gatto. Buonasera. Dunque Gatto, proviamoci intanto a spiegare come funzionano queste celle a combustibile PEM, che diciamo fanno un lavoro che sta poi al cuore di tutte le tecnologie a celle a combustibile. Allora, le celle a combustibile, le polimeriche, sono costituite come se fosse un sandwich. Sì. Ci sono degli elettrodi su cui è depositato il catalizzatore che fa venire appunto la reazione, che è a base di platino. Nel mezzo c'è una membrana polimerica che ha delle caratteristiche particolari, che è quella appunto di far passare i protoni, quindi degli ioni, i nuclei dell'idrogeno appunto, i nuclei, no? Dell'idrogeno, diciamo, sì, che da un compartimento dall'altro, ed è un isolante elettrico e impedisce, diciamo, il miscelamento dei due gas. Quindi è un materiale particolare che non fa passare la corrente, no, è un che sono gli elettroni, ma fa passare delle cariche positive, degli ioni, nello specifico questi protoni, quindi i nuclei dell'idrogeno, da una parte all'altra. Quindi è un sandwich, cioè il prosciutto è la membrana di cui stiamo parlando, polimerica, e ai due lati ci sono questi due elettrodi, sì, dove l'idrogeno e l'ossigeno si incontrano fisicamente producendo energia elettrica e acqua. E è acqua. Così? Mm? Sì. Benissimo. Ecco, e questa reazione tra l'idrogeno e l'ossigeno di fatto è alla base di tutte le famiglie di celle a combustibile, anche quelle in cui diciamo ci sono in realtà processi più complessi, perché non si usa l'idrogeno ma altre robe come il metano, alcol o cose di questo tipo. Tutte però alla fine arrivano a questa reazione tra idrogeno e ossigeno. Sì, è ovvio che è importantissimo che nel caso delle celle a combustibile elettrolita polimerico, che la membrana sia una barriera di separazione fra l'idrogeno e l'ossigeno, altrimenti se ci fosse il mero mescolamento di idrogeno e ossigeno si avrebbe una combustione e non più la produzione di energia elettrica. Esattamente, sarebbe come dar fuoco all'idrogeno, sappiamo produce calore ma certamente non energia elettrica, mentre è facendo avvenire in modo controllato, diciamo, no, ordinato queste reazioni che si produce anche energia elettrica. Esattamente. Senta, quali sono le caratteristiche che rendono unica questa tecnologia? Non a caso ci si sta investendo molto in termini di ricerca. Sì, diciamo la principale caratteristica, specialmente perché diciamo questa tipologia di celle viene utilizzato principalmente nel settore dei trasporti, è un rapido avvio, quindi diciamo non è necessario dei lunghi tempi di riscaldamento, di accensione, diciamo, prima di avviare il sistema. L'altra, diciamo, caratteristica principale è un'alta densità di potenza, cioè un'alta capacità di produrre potenza in volumi e pesi molto contenuti. Ecco, per dare un'idea, diciamo una cella a combustibile delle dimensioni di un cartone di latte, che potenza produce? Allora, consideri che un target è che un litro con un kilowatt. Ok, d'accordo. Quindi diciamo che con tre cartoni del latte si producono 3 kilowatt, che è l'equivalente del contatore elettrico di casa, per capirsi come potenza. Una roba molto piccola e compatta. Consideri che, diciamo, il target un po' più a lungo termine sono di ottenere con un litro 1,7 kilowatt. D'accordo, quasi il doppio, quindi, questo come obiettivo finale. Sì. Okay. Diciamo da qui a un 15-20 anni, ecco. Senta, tra l'altro, e qui viene fuori il tema dell'economia all'idrogeno, sono, diciamo, queste tecnologie possono funzionare anche al contrario, cioè possono anche produrre idrogeno se gli si dà in pasto energia elettrica? In realtà sì, anche se normalmente non so, diciamo, bisogna andare a cambiare le componentistica, perché ovviamente la componentistica con cui è costituita la cella a combustibile non è proprio esattamente, non è l'ideale, o l'ideale, funziona bene in una però, direzione o funziona bene nell'altra, esatto, in tutte e due esatto, contemporaneamente si fa fatica a farlo funzionare bene, si perde, diciamo, in prestazioni, quindi in efficienza in qualche modo, che quindi è una delle caratteristiche principali, diciamo, delle celle a combustibile, avere un'alta efficienza utilizzando, diciamo, volendo utilizzarla pure come sistema reversibile, questa, diciamo, perdiamo questa garanzia. Perdiamo in efficienza. Ecco, però tecnologie del tutto analoghe con degli aggiustamenti possono essere utilizzate al contrario, quindi per esempio per accumulare idrogeno quando ci sono dei surplus di energia elettrica, magari dovuti, non so, al fotovoltaico, no, che concentra la produzione di energia in poche ore. Certo. Produrre in qualche modo l'idrogeno, come, diciamo, in quel caso si utilizzano principalmente gli elettrolizzatori PEM, in cui sempre, diciamo, il cuore è appunto questa membrana polimerica che ha queste caratteristiche simili, diciamo, a quelle che abbiamo utilizzato per le celle a combustibile elettrolita polimerico. Senta, oggi come oggi, quali sono i colli di bottiglia, le problematiche da superare per avere un'effettiva diffusione nell'utilizzo dell'idrogeno, che poi finirebbe appunto utilizzato da queste celle a combustibile? Allora, per quanto riguarda l'idrogeno, appunto è l'accumulo, diciamo, è la distribuzione sulla larga scala, diciamo, e quindi con le problematiche relative alla sicurezza dell'accumulo di idrogeno. Attualmente, diciamo, per accumulare l'idrogeno e per la distribuzione, diciamo, l'utilizzo nel trasporto, si utilizzano delle bombole ad alta pressione, tipo 700 bar, che sono tantissimi, che sono molto elevati, quindi come ci si può rendere conto che magari dal punto di vista di sicurezza non è proprio l'ideale. Quindi molta attività di ricerca si sta indirizzando per cercare di risolvere appunto la problematica sull'accumulo di idrogeno, lavorando su materiali che siano materiali solidi che siano capaci di assorbire l'idrogeno in quantità tali da permettere una certa autonomia nell'utilizzo appunto delle celle a combustibile nei veicoli. Si usano dei materiali, spesso sono dei metalli che funzionano un po' come delle spugne, no? Sì, diciamo, ci sono varie tipologie, certo. Più, diciamo, quelli dove si riesce ad accumulare di più sono i cosiddetti idruri metallici, diciamo, che sono lo standard in qualche modo, anche se si sta lavorando anche su una serie di materiali che sono in grado di accumulare l'idrogeno all'interno, come se fossero delle spugne porose, quindi esatto. L'idrogeno viene accumulato all'interno e poi viene rilasciato al momento un po' alla volta. Che è necessario. Ecco, però appunto non si ha il problema di un oggetto ad alta pressione, no? Perché no, come una spugna trattiene l'acqua, a meno che non la spremiate, l'acqua resta nella spugna, insomma, fondamentalmente. Esatto, diciamo, in questi tipi di materiali le pressioni sono molto più ridotte, si può arrivare al massimo 20 bar, 100 bar. Insomma. Quindi cose assolutamente normali, invece, da normali bombole. Sì. Ecco, dunque, non è tanto nella tecnologia delle celle a combustibile che bisogna fare dei miglioramenti, non è lì il collo di bottiglia, secondo lei? No, diciamo, ovviamente dei margini di miglioramento ci sono e ci saranno sempre, però, diciamo, il principale problema è legato ai numeri di produzione. Consideri che per quanto riguarda le unità, i numeri di veicoli, attualmente noi siamo sulla produzione di qualche migliaio di veicoli, ma dovremmo arrivare a centinaia di migliaia nel prossimo futuro. Per raggiungere le economie di scala che servono a rendere competitiva questa tecnologia? Sì. Centinaia di migliaia. Senta, ma più o meno adesso quali sono i costi e quali potrebbero essere i costi obiettivo di questa tecnologia? Allora, lei consideri che attualmente abbiamo un costo attorno alle centinaia di euro per kilowatt di e dovremmo potenza, arrivare sì, alle decine di euro per kilowatt. Quindi insomma un salto quasi di un ordine di grandezza all'incirca nel costo. E questo le dice, se i numeri raggiungono le centinaia di migliaia o milioni di unità, si riesce sarà a fare. Possibile, sì. Grazie, grazie Irene Gatto. Grazie, arrivederci. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.